qualche minuto per la rubrica Altri Suoni, che nasce proprio per il martedì, fra l'altro, e quindi cade esattamente nella giornata odierna, 16 gennaio, imprevedibile martedì, e tant'è, anche se prevedibile Altri Suoni propone musiche inconsuete tra elettronica, glitch, ambient noise, sperimentazioni sonore, contemporaneo e tutto un motivo di ricerca, lavoro alternativo nella EDM, musica da club, dubstep e tutto legato all'elettronica, ma non solo, a un'intersezione musicale che tende appunto a dare alle musiche inconsuete, così chiamate o così definite da me con Altri Suoni, una piccola playlist. Quest'oggi per presentare Felty DL, è il nome d'arte di un produttore, Andrew Lastman, nasce negli Stati Uniti d'America, ha delle caratteristiche ben precise, ha un suono, se vogliamo, anche estremo. Del resto lui produce per la Planet Mew di Mike Paradinas. Ieri nel mobilone dei CD vengo attratto anche dal logo della Planet Mew, molto particolare. Mew era il continente antagonista di Atlantide, questa piccola nota legata al mito, ma restiamo alle sonorità di Felty DL, che è legata all'EDM con una deriva molto spesso vicina al dubstep, ma è come micro sensazione di percorso pervaso, secondo me, da una dolcezza veramente molto presente nelle sue composizioni. Ce l'ascoltiamo da questo vinile, che per me ha una copertina stupenda che pubblicherò poi a breve, Felty DL, Love is a Liability, l'amore è una responsabilità. Già dal resto, oltre che dalla copertina, ho preso questo disco per Planet Mew, anche perché la label la seguo costantemente, qualche anno fa, mi pare nel 2001, e adesso vi darò indicazioni più precise, proprio per la bellezza sia estetica del packaging, come si dice adesso, ma anche per il titolo. Ovviamente ascoltando le sonorità mi sono rimasto attratto per questa intensità, ma al contempo per un sotteso di dolcezza. L'amore è una responsabilità. Love is a liability. We'll be right back. un doppio vinile, quindi ho giocato sulle due parti. Questo è il primo brano della sezione, della facciata, dai, sezione, non siamo mica in mostra, della facciata C, Our Loss, la nostra perdita. Già anche dai titoli, che sono molto particolari, Dionysius, il brano che abbiamo ascoltato in precedenza, Winter Soul e altri titoli, vabbè, ok, per quanto riguarda i titoli, certo, vi è anche in questo caso un'attinenza alla comunicazione rispetto, come ho detto, a un amore presente nonostante queste lame taglienti, questi ritmi sincopati. Falti di El, la copertina è stupenda, ritrae alcune vive in bianco e nero con queste piccole polaroid. Tra queste vi sono anche Liza Minnelli e Monica Vitti. È una copertina poster, eh? Interessante anche per l'uso dell'editing nella voce. Questo è il suo secondo lavoro, sempre per Planet Mew, You Stand Uncertain. Il brano che stiamo ascoltando è Brazil, la voce di Lily McKenzie, come ho detto anche il protagonista come interpreta e come affida la parte musicale con l'aspetto vocale. È assolutamente di costruzione molto interessante, molto mirata. Sono dei beat sincopati nell'elettronica che sfiorano IDM, dubstep, sonorità nel tappeto ambient come armonia. Un lavoro che, come ho detto, va ad arricchire la playlist di Altri Suoni per la giornata di martedì. Will you stick around? Stay around this time with me. I've waited patiently on my own again, again, again. Into this, I'm selfishly wanting you. Could it be that I found that some yeah. star nel contesto di EDM dubstep, che di solito con queste lame si porta in un tappeto legato a sonorità oscure, falti di Ella, la particolarità anche dalla voce che abbiamo ascoltato in precedenza del soul, della dolcezza, anche un gusto di ricerca molto particolare. È il protagonista di oggi, Andrew Lastman, dal Connecticut, falti di Ella, Love is a Liability, che abbiamo ascoltato con questi tre brani, intervallato da You Stand Uncertain, il suo secondo disco sempre per Planet Mew. Sono le 7:58, terminata la puntata di oggi di Altri Suoni, torneremo tra pochissimo con il Mood to Groove. Buon ascolto.